Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Giancarlo Aneri, l'uomo che fa brindare i grandi. Quando io ho letto, 6 mesi prima delle elezioni americane, un'intervista sul New York Times di Barack Obama, che ha detto: se io diventerò presidente, in quel momento poteva diventarlo come poteva essere uno di passaggio, andrò a festeggiare con mia moglie Michelle nel mio ristorante preferito di Chicago, che si chiama La Spiaggia, dove lo chef Tony Mantuano è bravissimo, io ho detto: Barack Obama, sei mio. Tu non lo sai, ma sei mio. E allora ho organizzato, ho chiesto al mio importatore se era cliente La Spiaggia di Chicago. Sono andato a parlare a Chicago con Tony Mantuano. Ho detto: signor Mantuano, io mi permetto di mandarle delle bottiglie che lei deve mettere in frigo, perché a Neri porta fortuna. Quando Obama, che diventerà presidente, verrà a festeggiare da lei, mi prometta che va con una bottiglia di Aneri e lei dice: un signore dall'altra parte dell'Atlantico, in questo momento italiano, che si chiama Giancarlo Aneri, che produce questo prosecco, brinda con noi. Obama l'ha apprezzato tantissimo e io di notte, nelle prime ore del mattino, ho ricevuto la mail da Tony Mantuano che mi ha detto: ieri sera il presidente con la moglie Michelle mi ha mandato il menù, mi ha mandato tutto, e io mi sono sentito un uomo importante, ma mi sono anche sentito un uomo che lavora per diventare importante, non perché vince la schedina. Cioè io, quando 6 mesi prima ho letto questo, ho fatto in modo che potesse succedere una cosa che resterà nella storia della mia azienda. Giancarlo Aneri è nato a Legnago nel 1949. Sposato, 2 figli, produce vino, olio, caffè di altissima qualità che esporta in tutto il mondo. Con le sue bottiglie ha brindato nella prima cena del dopo elezione Obama, ma anche 2 presidenti della Repubblica Italiana. Il suo vino è stato offerto da Berlusconi a Putin, è stato donato ai leader al G8 dell'Aquila e ai capi di Stato e di Governo che firmarono la Costituzione Europea nel 2004. La sua storia comincia dalla provincia del Nord-Est. Io sono nato a Legnago di Verona, un paese di 30.000 abitanti, dove c'è un'imprenditoria più artigianale che industriale. E da Legnago poi ho cominciato la mia storia come imprenditore dopo aver passato 20 anni della mia vita come manager. Mio padre era un capostazione del paese dove vivevo io e sono partito quando ho cominciato a lavorare, ho cominciato lì alla Ferrari, con la valigetta in giro per il mondo con una bottiglia dentro, perché la Ferrari in quel momento era una piccola realtà. Adesso vado nei più belli alberghi del mondo, che sono anche i miei clienti. Perché io poi ho una teoria. Io vado dal miglior cliente perché so che vendo. E lui è caro, mi fa pagare caro. Ma anch'io faccio pagare caro a lui. E perciò io sono sempre ospite. Perché io vendo quando vado là. Cioè io nel miglior albergo, Aman, io vado, c'è la settimana. Io recupero tutto quello che spendo per andare a Aman perché vendo molto a quel cliente in cui vado. Però vado sempre nel mio ristorante, nel miglior albergo. E io voglio vendere. Alla Ferrari resta 20 anni, sino a diventare vicepresidente e direttore generale di un'azienda che era passata da 190.000 a 3 milioni e mezzo di bottiglie. C'era una grande differenza, però non mi voglio prendere solo come Giancarlo Aneri l'applauso per aver dato molto. È stato un lavoro di squadra, con una famiglia seria che si è dedicata, e i risultati sono arrivati. Come sempre, quando c'è un progetto, c'è la voglia di fare e c'è tanto sacrificio, i risultati arrivano, sia nei momenti buoni che nei momenti meno buoni come questo. E io lì ho capito che il mondo era a mia disposizione. Bastava andare, bastava farsi conoscere e bastava avere il coraggio di presentarsi entrando dalla porta principale, piuttosto che mandare una lettera, mandare delle notizie che non servono a niente. Cioè la mia credibilità era quella di dire: io vengo perché sono sicuro che vi presento un prodotto buono con un progetto buono. Ascoltatemi, qualche cosa andrà bene per voi e anche per noi. E per il suo lavoro le cose sono andate bene, anzi benissimo. Il sistema utilizzato, quello di presentarsi di persona, di credere nel prodotto, funziona in parecchi casi nel lungo periodo in cui Giancarlo Aneri lavora alla Ferrari. Al Lido di Parigi, per esempio, dopo 8 viaggi di Aneri nella capitale francese, entra lo spumante italiano. e funziona anche con Enzo Ferrari, patron di Maranello. La prima persona che mi ha insegnato come ci si deve comportare andando in giro per il mondo è stato Enzo Ferrari di Maranello. E il primo che mi ha insegnato le cose da fare andando all'estero è stato proprio Enzo Ferrari, io ero un ragazzino. Ero all'inizio del mio lavoro alla Ferrari di Trento. La Ferrari vinceva le gare di Formula 1 e brindavano i piloti della Ferrari con il Moët Chandon. E io ho detto, non è giusto. Allora, io non conoscevo Ferrari, io sono partito, questo c'è nei libri, perciò, sono partito da Trento con 6 Magnum, Magnum è la doppia bottiglia di spumante. Ho suonato a Maranello, è venuto un signore, mi ha detto, scusi, voglio parlare con l'ingegner Ferrari. E lui mi ha detto, ma lei chi è? Io sono Giancarlo Aneri. Ma è cosa... Lei dica all'ingegner Ferrari che c'è un signore che vuole parlare. Mi arriva il segretario di Enzo Ferrari e mi dice, lei chi è? Sono Giancarlo Aneri. E cosa vuole? Sono venuto giù da Trento, ho portato 6 Magnum di spumante che si chiamano Ferrari come l'ingegnere, però voglio consegnarglieli personalmente. Mi fa, guardi che l'ingegnere ha gli appuntamenti per un mese, non può riceverla. Guardi, gli ho detto, io sono di fronte al cavallino lì a Maranello, aspetto. Anche se stasera alle 8 quando lui va a cena, io voglio consegnarli direttamente. Non voglio che trovi questo cartone perché non ho neanche scritto una lettera. Dopo mezz'ora mi ha detto, guardi, fra 3 ore l'ingegner Ferrari la riceverà. Io sono andato, mi ha tenuto dentro un'ora. Dopo, l'automobilismo brinderà italiano, così come farà in molte occasioni importanti il calcio. La svolta, la decisione di mettersi in proprio, arriva per Giancarlo Aneri dal figlio, allora quindicenne. Allora, io ero manager, come dicevamo prima, e da 20 anni ero alla Ferrari di Trento. Un giorno al Vinitaly, con mio figlio piccolo, stavo camminando e lui mi ha detto, ricordati papà che io, quando sarò grande, non verrò a lavorare alla Ferrari, voglio lavorare con qualche idea mia. Allora, mentre camminavo al Vinitaly, perciò vede che il vino mi accompagna sempre, non perché lo bevo, ma perché fa parte del mio DNA. E allora io camminando ho detto, ma perché devo continuare a fare io il manager, magari considerato da altri super manager, e non pensare alla mia famiglia, al nome della mia famiglia e alle potenzialità della mia famiglia? Avevo un figlio e una figlia. E quell'anno lì, alla fine dell'anno, mi sono preso una settimana di vacanza, sono andato in montagna, e ho deciso che l'anno dopo cominciavo a fare l'imprenditore. Sono stato fortunato perché io, quando ho cominciato a fare l'imprenditore, ho pesato anche la mia credibilità, perché mi hanno seguito come partner in questa iniziativa. La mia prima società è stata l'E-Group, Giovannino Agnelli, quello titolare della Piaggio, che purtroppo non c'è più, e Luciano e Alessandro Benetton. Allora, quando ho parlato con loro e ho visto che accettavano quello che era il mio progetto, che era un progetto insignificante pensando ai numeri che facevano loro con le loro aziende, ho detto forse è un progetto che ha una grande potenzialità, perché questi signori sono abituati a vedere il mondo come una terra di conquista e si eccitano anche all'idea di fare piccole cose ma molto prestigiose. E la mia società è partita dove avevo questi partner. Questi partner mi hanno dato un sostegno, sia, ma non dico finanziario, non ce n'era bisogno, morale e anche d'immagine, perché erano persone conosciute dappertutto. Le aziende oggi sono 2, la Aneri, che si occupa di vini, e la E-Group, che si occupa di caffè e di olio extravergine. Aziende piccole e di qualità e prodotti da vendere in tutto il mondo. Aneri afferma che nell'imprenditoria italiana non contano tanto i grandi numeri, ma conta come si posiziona il tuo prodotto. Cioè, io volevo dedicarmi a dei prodotti che avessero un mercato internazionale. Il caffè espresso, quando abbiamo cominciato noi nel 1992, il caffè espresso era già nella rampa di lancio per diventare un must italiano nel mondo, ma non era così importante. E io ho detto, compriamo una bella torrefazione, che ha una bella storia, che fa prodotto di qualità, e andiamo a presentarlo all'estero. L'olio, l'altro mio progetto, non ho detto io voglio vendere un olio extravergine di oliva italiano. Io ho creato 3 società. Piccole, guardi, che io continuo a ribadire piccolo, perché non voglio passare per uno che fa i progetti megagalattici. Però ne ho creata una in Liguria, una in Umbria e una in Toscana, dove secondo me producono il miglior olio extravergine italiano. Ho creato un'oliera dove ho messo le 3 bottigliette perché ho detto: a Parigi dicono l'olio italiano è buono, ma devono sapere che l'olio ligure è leggero, l'olio umbro è una via di mezzo e l'olio toscano è più importante come gusto. Io volevo portare, cioè tutti i miei progetti partono dalla cultura. E la cultura parte dalla terra, la cultura parte dal rispetto della terra e dal rispetto di quello che tu porti nelle tavole poi del consumatore normale. Oltre il lavoro, una passione, il giornalismo. Giancarlo Aneri nel 1995 fa nascere da questa sua passione il premio È Giornalismo, mettendo assieme quelli che erano i nomi più importanti del giornalismo italiano: Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca. Io sono un grande lettore. Come grande lettore avevo dei miei idoli, cioè uno segue il calcio, dice mi piace Platini piuttosto che Bettega, piuttosto che Del Piero. Io i 3 giocatori che consideravo più importanti del mondo nel giornalismo li ho conosciuti e sono quelli che poi sono entrati in giuria con me e sono stati anche fondatori, Montanelli, Biagi e Bocca. Ma li ho conosciuti leggendo gli articoli che loro scrivevano nei giornali. Mi sono confrontato quando li ho conosciuti con loro, hanno capito che non bleffavo, siamo diventati amici a livello trentennale, cioè non parlo delle amicizie che nascono al mare e finiscono a Natale, parlo di amicizie dove c'è la vacanza insieme, ci sono le frequentazioni, ci sono le colazioni, ci sono le confidenze. Quando io ho deciso di fare questo premio, ho detto faccio un ulteriore regalo ai miei figli e a mia moglie, i miei figli in particolare perché dovrebbero avere una continuità nei prossimi decenni. Ho detto io creo questo premio che è affiancato a quello che noi facciamo. Infatti si chiama E Giornalismo, la nostra società, quella dell'olio e del caffè, si chiama E Group. Mi raccomando, voi potete vendere le botteghe che producono il vino, l'olio, il caffè. Non dovete mai vendere il mio premio, che è anche il vostro. Perché noi abbiamo portato nel giornalismo, con quel premio lì, una ventata di freschezza e penso anche di serietà. La maggior parte delle foto che corredano sui giornali, gli articoli dedicati a Giancarlo Aneri, lo ritraggono assieme ad almeno un componente della sua famiglia. La moglie Valeria, il figlio Alessandro, la figlia Stella. Ma per chi ha una famiglia, lavorare in giro per il mondo non è semplice. Bisogna organizzarsi. Le racconto una giornata normale, quando i miei figli avevano 10 anni e 3 anni, perché sono 7 anni di differenza fra Alessandro e la Stella. Io organizzavo a loro un'alternativa, cioè non volevo che restassero in albergo ad aspettare il papà dalla mattina alla sera. Andavano in giro, andavano a fare shopping, andavano a vedere le cose. Se eravamo a Los Angeles andavano a Disneyland, se eravamo a New York andavano a vedere il mercatino di una certa zona di New York piuttosto che un'altra. Alla sera non accettavo mai inviti a cena, né con il mio importatore, né con i clienti, perché andavo a cena con la mia famiglia. E io il giorno dopo ero molto più carico, riuscivo ad ottenere dei risultati che se avessi passato la mia giornata solo con i businessmen non avrei potuto ottenere. La famiglia è rimasta unita e lavora insieme. La mia famiglia è il punto di riferimento più importante che mi dà la forza di fare cose che a volte mi costano anche un sacrificio fisico. Ma io penso a mia moglie, ai miei figli e dico loro dovrebbero essere orgogliosi per quello che ho fatto io. Adesso mio figlio lavora con me, mia figlia ha fatto una società nel campo della comunicazione e del marketing dove mi ha coinvolto e mi ha regalato un 10% di azioni. Vuol dire che la nostra unità può portarci anche al di fuori della mia prima esperienza enogastronomica. Sua moglie è sempre stata a suo fianco in queste sempre. Sue decisioni? Sempre nelle decisioni, tanto è vero che per ripagarla di questa sua disponibilità l'olio più importante che ho fatto io, che lo produco in Umbria, ha il suo nome, è dedicato a lei, si chiama Leda. E il vino bianco che produco io si chiama Leda. Cioè io poi ho unito anche gli altri i figli e il Pinot Nero che produco si chiama Ale, perché se mio figlio si chiama Alessandro, e l'Amarone, che è il mio prodotto di punta, si chiama Stella, che è il nome di mia figlia. Cioè ho fatto una società vera dove l'immagine è quella che tu rispondi fino in fondo. Dove tu rispondi fino in fondo.